Capitolo 4. La signora dell'aprile. Kingsport è una vecchia cittadina bizzarra, rimasta ferma ai primi tempi dell'epoca coloniale e avvolta in una sua antica atmosfera, come una vecchia dama che continui ad abbigliarsi con i vestiti della giovinezza. Qua e là compaiono sprazzi di modernità, ma il suo cuore rimane intatto e pieno di curiose vestigia, mentre intorno aleggia il romantico spirito delle antiche leggende. Una volta era una semplice stazione di frontiera, erano i tempi in cui gli indiani si davano da fare perché i coloni non avessero una vita monotona. Poi divenne il pomo della discordia nella contesa tra francesi e inglesi, fu occupata ora dagli uni e ora dagli altri, emergendo da ogni occupazione con una nuova cicatrice impressa all'interno delle sue mura dalle due nazioni in conflitto. Nel parco si erge una torre martello, ora ricoperta interamente dalle firme dei turisti. Un vecchio forte francese smantellato ammicca sulle colline che circondano la città e alcuni cannoni antiquati montano la guardia nelle pubbliche piazze. Ci sono anche altri posti che meriterebbero di essere scovati dai curiosi, ma nessuno è più buffo e tenero dell'Old St. John's Cemetery, situato proprio nel cuore della città e circondato su due lati da strade fiancheggiate da case vecchie e quiete e sugli altri da vie di grande traffico, gremite di folla, rumorose e affaccendata. Ogni abitante di Kingsport avverte un senso di orgoglioso possesso nei confronti di Old St. John's perché, per umile che possa essere, ha almeno un antenato sepolto qui, con una pietra bizzarra e sbilenca che gli pende sul capo o qualche altra stranezza schiaffata a protezione della sua tomba, sulla quale sono riportati tutti i fatti salienti della sua vita. Per lo più queste pietre tombali non rivelano un dispendio eccessivo di arte o di tecnica, sono quasi tutte ricavate da una pietra locale, bruna o grigia, rozzamente incisa e solo in rari casi presentano decorazioni interessanti. Alcune sono adorne di teschi e di tibie incrociate, una decorazione insolita che è spesso accoppiata a una testa di cherubino. Molte sono cadute in rovina. Con quasi tutte il tempo è stato impietoso, corrodendo la pietra fino a cancellare alcune scritte e a renderne altre quasi indecifrabili. Il cimitero è molto affollato e pieno d'ombra, circondato e attraversato com'è da filari di olmi e di salici, al cui riparo i defunti possono giacere quieti nel loro sonno senza sogni, cullati per sempre dal canto del vento e delle foglie che danzano su di loro senza essere disturbati dal clamore del traffico che scorre poco lontano. La sera successiva al suo arrivo, Anna fece la prima delle sue numerose escursioni a Old St. John's. Lei e Priscilla si erano recate a Redmond per iscriversi, avevano compiuto tutte le formalità nella mattinata e si erano quindi ritrovate con il pomeriggio libero. Le ragazze furono ben felici di andarsene, non trovando per nulla eccitante essere circondate da una moltitudine di estranei che avevano quasi tutti un aspetto assai spaesato, come se non si rendessero ancora ben conto del luogo nel quale si trovavano. Le studentesse del primo anno sostavano in gruppetti sparsi di due o tre, guardandosi l'un l'altra con sospetto, consce del loro stato di frescette. Mentre le matricole di sesso maschile, i fresci, più saggi per età e per pratica, si erano addensati sullo scalone dell'ingresso dove lanciavano grida di gioia con tutta la forza dei loro giovani polmoni, come una sorta di sfida in direzione dei loro tradizionali nemici del secondo anno, i sophomore, alcuni dei quali si aggiravano altezzosi a caccia di preda, con il disprezzo per i rozzi cucciolotti della scalinata dipinto a chiare lettere sul volto. Gilbert e Charlie non si vedevano da nessuna parte. Triste quel giorno in cui avvenga che io provi felicità alla vista di uno Sloane, declamò Priscilla mentre attraversavano il campus. Ma ahimè, temo che sia giunto quel momento, credo. Credo che cadrei in estasi davanti agli occhi bovini di Charlie. In fondo mi sono familiari. Oh, sospirò Anna. Non posso dirti come mi sentivo a starmene lì in attesa del mio turno di iscrizione. insignificante come la più piccola goccia d'acqua in un secchio enorme. È già abbastanza triste sentirsi insignificante, ma è davvero insopportabile avere ben stampata in mente la certezza che non potrai mai, dico mai, essere altro che insignificante. Ecco come mi sentivo, come se fossi stata invisibile a occhio nudo e uno di quei sof potesse inciampare su di me. Ero certa che sarei potuta morire senza che nessuno mi rimpiangesse o mi rendesse gli onori funebri o cantasse per me le lodi. Aspetta l'anno prossimo, la confortò Priscilla. Allora saremo sufficientemente smaliziate da apparire sofisticate e disgustate dalla vita almeno quanto un sophomore. Certo, è terribile sentirsi insignificanti, ma è sempre meglio che sentirsi grossa e goffa come mi sentivo io, quasi che tutta Redmond bastasse appena a contenermi. Credo che mi sia successo perché ero 4 centimetri più alta di chiunque altro del gruppo. Non temevo che un sof potesse camminarmi sopra, ma che mi scambiasse per un elefante o per un gigantesco esemplare di patatona isolana. Il fatto è che non possiamo perdonare alla grande Redmond di non essere una piccola Queens, sentenziò Anna, cercando di raccogliere i brandelli della sua allegra filosofia per tamponare le falle dello spirito. Quando ce ne siamo andate da Queens, conoscevamo tutti e disponevamo di un nostro spazio, ci aspettavamo di iniziare a Redmond dal punto in cui eravamo arrivati a Queens. E ora invece ci sentiamo mancare la terra sotto i piedi. Sono felice che la signora Linda e la signora Wright non sappiano né sapranno mai il mio stato d'animo attuale. Salterebbero di gioia dicendo te l'avevo detto, convinte che questo sia il principio della fine. Invece è soltanto la fine del principio. Esattamente. Comincio a riconoscere la mia Anna. Fra non molto ci saremo acclimatate, sapremo tutto e ogni cosa filerà per il meglio. Anna, hai notato per caso quella ragazza che se ne stava sola sulla soglia della toilette delle studentesse, dove è rimasta tutta la mattina, quella carina con gli occhi scuri e il broncio? Sì, mi è rimasta impressa più delle altre, perché sembrava l'unica persona là dentro con l'aria triste e abbandonata, proprio come me. Io avevo te, ma lei non aveva nessuno. Credo che si sentisse esclusa. Più volte l'ho vista fare un movimento come per venirci incontro, ma poi rinunciare. Troppo timida, immagino. Avrei voluto che ci venisse incontro. Se non mi fossi sentita così intensamente l'elefante di cui ti parlavo, sarei andata io da lei. Ma non avevo il coraggio di trascinare la mia mole attraverso quell'enorme vestibolo, con tutti quei ragazzi accatastati sulle scale. Era senz'altro la più bella frescette che ho visto stamane. Ma probabilmente la gloria di questo mondo è ingannevole, e anche la bellezza è vana e non giova a nulla. Il giorno delle iscrizioni a Redmond, concluse ridendo Priscilla. Penso che andrò a All St. John dopo pranzo, disse Anna. Non so se un cimitero sia il luogo adatto per tirarsi su di morale, ma mi pare l'unico posto a portata di mano, ricco di alberi. Ed io ho bisogno di alberi. Mi siederò su una di quelle vecchie pietre, chiuderò gli occhi e immaginerò di essere nei boschi di Avonlea. Anna, tuttavia, non chiuse gli occhi perché trovò sufficienti motivi di interesse in Old St. John's da essere indotta a tenerli invece ben aperti. Entrarono attraverso l'ingresso principale, oltre l'arco massiccio e lineare sormontato dal grande leone d'Inghilterra. A Inkerman i pruni selvatici sono tutti insanguinati, ma quei cupi pendii per sempre verranno ricordati, citò Anna, alzando gli occhi con un fremito. Si ritrovarono in un luogo verde, ombroso e quieto, dove venti leggeri carezzavano il volto. Vagarono su e giù lungo le aiuole erbose, leggendo i bizzarri e prolissi epitaffi incisi in un'epoca che aveva più tempo a disposizione della nostra. Qui riposa il corpo di Albert Crawford, lesse Anna su una pietra grigia corrosa dal tempo, per molti anni intendente dell'artiglieria di Sua Maestà Kingsport, Servì nell'esercito fino alla pace del 1763, quando si ritirò per motivi di salute. Fu un bravo ufficiale, il migliore dei mariti, il migliore dei padri, il migliore degli amici. Morì il 29 ottobre 1792 all'età di 84 anni. Ecco un epitafio per te, Prissy. Hanno avuto certamente bisogno per redigerlo di un trampolino per la fantasia. Una vita del genere sarà stata piena di avventure. E per quanto riguarda le sue qualità personali, penso che nessun panegirico umano possa contenere di meglio. Mi domando se qualcuno gli ha mai detto che era tutte quelle belle cose quando ancora era vivo. Eccone un altro, disse Priscilla. Ascolta, alla memoria di Alexander Ross, che morì il 22 settembre 1840 all'età di 43 anni. Questa lapide è stata eretta in segno di affetto da uno che gli servì così fedelmente per 27 anni, da essere trattato alla stregua di un amico, meritando la più totale confidenza e il più sincero attaccamento. Un bellissimo epitafio, commentò pensosa Anna. Non potrei pensarne uno migliore. In un modo o nell'altro siamo tutti servi di qualcuno. E se la fedeltà merita di essere incisa sulla nostra pietra tombale, non occorre aggiungere nient'altro. Ecco qui una piccola pietra grigia che fa tristezza, Prissy. Alla memoria di un bimbo molto amato. E qui un'altra, alla memoria di uno che è sepolto altrove. Chissà dove si trova questa tomba sconosciuta. Davvero, Pris, i cimiteri di adesso non saranno mai interessanti come questo. Hai visto giusto? Verrò qua spesso, amo già questo posto. E poi non sarò sola, c'è una ragazza alla fine di questa strada. Sì. E credo che sia proprio la ragazza che abbiamo visto a Redmond stamane. La sto osservando da 5 minuti. Ha fatto il gesto di risalire la via verso di noi almeno una mezza dozzina di volte e altrettante si è girata ed è tornata indietro. O è terribilmente timida o ha un peso sulla coscienza. Adesso le vado incontro. È più facile fare conoscenza in un cimitero che a Redmond, a quanto pare. Scesero lungo il portico erboso incontro alla sconosciuta che stava seduta su una pietra grigia sotto un enorme salice. Era senz'altro molto graziosa, di un tipo di bellezza irregolare, intensa e seducente. C'era una lucentezza come di noce bruna nei suoi capelli soffici e setosi e uno splendore morbido e pieno sulle sue guance rotonde. Gli occhi erano grandi, scuri e vellutati sotto le bizzarre sopracciglia volte all'insù, e la bocca imbronciata era di un rosa vivo. Indossava un elegante abito marrone da cui spuntavano un paio di scarpette all'ultima moda. Il suo cappello di paglia rosa pallido, ornato di papaveri in una rara tonalità di oro brunito, aveva quell'aria indefinibile e inconfondibile insieme che possiedono le creazioni di un artista della modisteria. Priscilla ebbe di colpo la sgradita consapevolezza che il suo cappello era stato confezionato dalla modista del suo paese, mentre Anna si domandava sconfortata se la camicetta che si era cucita lei stessa e alla quale la signora Lindy aveva dato gli ultimi tocchi non avesse un'aria troppo paesana e casalinga rispetto alla smagliante tenuta della sconosciuta. Per un attimo le due ragazze ebbero la tentazione di fare dietro fronte. Ma avevano ormai raggiunto la lapide grigia e si erano fermate. Era troppo tardi per tornare indietro, perché la ragazza dagli occhi marrone aveva evidentemente dedotto che erano andate lì per parlare con lei. Si alzò immediatamente per correre loro incontro con la mano tesa e un sorriso allegro e amichevole in cui non c'era ombra di timidezza o di senso di colpa. «Oh, vorrei sapere chi siete, ragazze!» esclamò calorosamente la sconosciuta. Muoio dalla voglia di saperlo. Vi ho viste a Redmond stamattina. Sentite, era o no abominevole quel posto? Per tutto il tempo non ho fatto che rimpiangere di non essere rimasta a casa e di non avere accettato di sposarmi. A quell'inaspettata conclusione, Anna e Priscilla scoppiarono in una irrefrenabile risata. Anche la ragazza dagli occhi marroni si mise a ridere con loro. Parlo sul serio. Avrei potuto farlo, sapete. Forza, sediamoci su questa pietra tombale e diciamoci tutto. Non sarà difficile, sono sicura che ci piaceremo un sacco. L'ho pensato appena ho gettato gli occhi su di voi stamane a Redmond. Avrei voluto puntare dritto su di voi e abbracciarvi tutte e due. E perché non l'hai fatto? Domandò Priscilla. Semplicemente perché non ho saputo decidermi. Non sono mai capace di decidere alcunché. Sono torturata dall'indecisione. Appena decido qualcosa, sento dentro di me una vocina che mi dice l'opposto. È un'orribile disgrazia, ma sono nata così e non è il caso di farmene una colpa, come certa gente usa fare. Non ho saputo decidermi a venire da voi, ma l'ho desiderato un sacco. Pensavamo che fossi timida, disse Anna. No, no, Stella, la timidezza non è tra i miei difetti, o devo dire tra le mie virtù. Non appartiene, insomma, a Filippa Gordon, per gli amici Phil. Chiamatemi subito Phil. E adesso. E voi? Lei è Priscilla Grant, disse Anna, indicandola. E lei è Anna Shirley, disse Priscilla, indicando a sua volta. E veniamo dall'isola, dissero insieme. Io da Bolingbroke, nella Nuova Scozia, disse Filippa. Bolingbroke! Esclamò Anna. Ma pensa, è il posto dove sono nata. Sul serio? Ma allora sei anche tu della Nuova Scozia, dopo tutto? Oh, niente affatto, ribatté Anna. Non è stato Dan O'Connell a dire che se un uomo è nato in una stalla, ciò non basta a fare di lui un cavallo? Io sono un'isolana, fino al midollo. Ok, in ogni caso, sono felice che tu sia nata a Bolingbroke. È un po' come essere sorelle, non ti pare? E questo mi piace perché quando ti confiderò dei segreti non sarà come dirli a un'estranea. E ho proprio bisogno di farlo. Non sono capace di mantenere i segreti. Non sono abituata a farlo. Questo è il mio peggiore difetto, insieme all'indecisione che ho già detto. Mi credereste? Ho impiegato mezz'ora per decidere quale cappello indossare per venire qui. Qui, in un cimitero. In un primo momento mi sono sentita attratta da quello marrone con la piuma, ma appena me lo sono messo in testa ho pensato che quello rosa con il bordo di papaveri sarebbe stato più adatto. E poi, come me lo sono visto addosso, ho deciso che quello marrone era migliore. Alla fine li ho messi sul letto, l'uno accanto all'altro, ho chiuso gli occhi e ho vibrato un colpo con uno spillone. Ho infilzato quello rosa e così me lo sono messa. Mi dona, non vi pare? Ditemi che cosa pensate del mio abbigliamento. A questa ingenua domanda, formulata con voce grave, Priscilla scoppiò nuovamente a ridere, ma Anna, stringendo d'impulso la mano di Filippa, le disse: Stamattina abbiamo pensato che eri la ragazza più carina che avevamo visto a Redmond. La bocca a bocciolo di Filippa si aprì in un sorriso sfolgorante sui piccoli denti bianchissimi. Anch'io lo pensavo, fu la sua sbalorditiva affermazione. Ma avevo bisogno dell'opinione di qualcun altro per sostenere la mia. Non sono capace di prendere una decisione nemmeno per quanto riguarda il mio aspetto. Appena decido che sono graziosa, comincio a sentirmi disperata perché non lo sono. Come se non bastasse, ho una vecchia prozia che non fa che dirmi, con un lugubre sorriso, Oh, eri una bambina così bellina. È incredibile come cambiano i bambini crescendo. Io adoro le zie, ma detesto le prozie. Per favore, ripetetemi spesso che sono carina, se non vi dispiace troppo. Mi sento così meglio quando credo di esserlo. E se volete, potrò ricambiarvi allo stesso modo. Posso farlo con la coscienza tranquilla. Grazie, rise Anna. Ma Priscilla e io siamo così sicure del nostro bell'aspetto che non abbiamo bisogno di alcuna assicurazione, perciò non dartene pena. Oh, vi burlate di me. Pensate certamente che sono un'abominevole vanitosa, ma non lo sono. In realtà in me non c'è nemmeno un briciolo di vanità. E non sono affatto parca di complimenti nei confronti delle altre ragazze, se li meritano. Sono così felice di avervi incontrate, ragazze. Sono arrivata qui sabato e da allora sto morendo di nostalgia. Mi sento di umore orribile. A Bolingbroke sono un personaggio importante, sapete, mentre qui a Kingsport non sono nessuno. C'erano dei momenti in cui mi sentivo gelare il sangue nelle vene. Dove siete alloggiate? Al 38 di St. John Street. Oh, di ben in meglio, pensate! Io sto proprio dietro l'angolo, in Wallace Street, ma la mia pensione non mi piace. È squallida e solitaria e la mia camera si affaccia su un cortile interno maledettamente infelice. È il posto più brutto del mondo. Non parliamo dei gatti, poi. Sicuramente non tutti i gatti di Kingsport possono darsi appuntamento sotto la mia finestra, ma la metà almeno sì. Io adoro i gatti che fanno le fusa sul tappeto davanti al camino, accanto a un bel fuoco crepitante e confortevole, ma i gatti in un cortile a mezzanotte sono tutt'altra cosa. La prima notte non ho fatto che piangere, e lo stesso i gatti. Penso che avrete notato com'era il mio naso stamattina. Oh, come vorrei non essermene mai andata da casa mia. Non riesco a capire come hai fatto a prendere la decisione di venire a Kingsport, se sei una personcina così indecisa, osservò divertita Priscilla. Non l'ho deciso io, Stellina. Mio padre mi ci ha mandata. Ce l'ha sempre avuto in mente, chissà poi perché. Non è buffo pensare che proprio io vada all'università per prendere un diploma? Non che io non possa farcela, ovviamente ho cervello da vendere. Oh, esclamò Priscilla, evasiva. Sì, ma è faticoso servirsene. E quelli che hanno preso il diploma sono creature così acculturate, dignitose, sagge e solenni. Devono esserlo. No, io non volevo venire a Redmond. L'ho fatto solo per far piacere a mio padre. È un tale amore. Oltretutto sapevo che se fossi rimasta a casa avrei dovuto sposarmi. Mia madre lo voleva con tutte le sue forze, ma detestavo proprio l'idea di sposarmi, almeno per qualche anno. E poi, per quanto possa essere assurda la prospettiva che io prenda un diploma, il pensiero di diventare una vecchia donna maritata è ancora più assurdo, no? Ho solo 18 anni, manco per idea. Meglio Redmond che un noioso matrimonio. Tra l'altro, come facevo a decidere chi sposare? Avevi tanti pretendenti? Un sacco. Piaccio molto ai ragazzi. Ma ce n'erano solamente due per cui valesse la pena. Per il resto erano tutti o troppo giovani o troppo poveri. Capite, io devo sposare un uomo ricco. Devi proprio? Stellina, riesci a immaginare me sposata a un uomo povero? Ci riesci davvero? Non so fare una sola cosa utile e inoltre sono incredibilmente stravagante. Oh no, mio marito deve avere soldi, ha palate. Questo mette tutti i miei pretendenti fuori concorso, tranne due. Ma non so decidermi tra i due. Sarebbe più facile tra 100. So che se decidessi per uno qualsiasi dei due passerei la vita a rimpiangere l'altro. Non ne ami nessuno? Si informò Anna con una punta di esitazione. Non era facile per lei parlare con una sconosciuta dei grandi misteri e delle metamorfosi della vita. Ma certo che no, io non posso amare nessuno. Non è nel mio carattere. Ben inteso, non lo vorrei mai. L'amore rende schiavi e io non ho nessuna voglia di conferire a un uomo un potere così grande come quello di farmi soffrire. Ne avrei paura. No, no, no. Alec e Alonso sono due cari ragazzi, li adoro entrambi e non so davvero chi mi piaccia di più. Questo è il punto. Alec è splendido, è ovvio, perché non potrei mai sposare un uomo che non fosse bello, e anche di buon carattere e ha degli adorabili riccioli neri. Ma è davvero troppo perfetto ed io non credo che mi piacerebbe un marito troppo perfetto, uno a cui non potessi mai trovare dei difetti. E allora perché non sposi Alonso? Domandò seria Priscilla. Pensare di sposare un uomo di nome Alonso, esclamò addolorata Phil, non potrebbe durare. Ma possiede un naso classico e sarebbe un vero conforto avere un naso in famiglia su cui fare affidamento. Non posso contare sul mio. Finora ha preso dai Gordon, ma ho l'impressione che andando avanti con gli anni svilupperà le caratteristiche dei Byrne. Ogni mattina lo esamino con ansia per essere sicura che sia ancora Gordon. Mia madre è una Byrne e ha il classico naso di famiglia. Aspettate di vederlo. Io adoro i bei nasi. Il tuo naso è terribilmente bello, Anna Shirley. Il naso di Alonso fa pendere la bilancia a suo favore. Ma chiamarsi Alonso? No, non potrei decidere. Se avessi potuto fare come con i cappelli, metterli vicini, chiudere gli occhi e infilzarli con uno spillone, sarebbe stato assai più facile. Come si sono sentiti Alec e Alonso quando te ne sei andata? Domandò Priscilla. Oh, loro hanno ancora delle speranze. Gli ho detto che avrebbero dovuto aspettare finché non avessi preso una decisione. E sono intenzionati a farlo. Mi adorano, entrambi, sapete? Nel frattempo io intendo spassarmela un po'. Mi aspetto di avere un sacco di ammiratori a Redmond. Non mi sento felice se non ne ho, sapete? Ma non vi sembra che le matricole siano orribilmente scialbe? Fra tutti ne ho visto soltanto uno passabile. Ho sentito il suo compagno chiamarlo Gilbert. Il suo amico aveva degli occhi così sporgenti, ma così sporgenti! Non ve ne andrete di già, ragazze? No, per favore! Dobbiamo, disse abbastanza freddamente Anna. Si sta facendo tardi e ho del lavoro da sbrigare. Ma verrete tutte e due a trovarmi, vero? Domandò Filippa alzandosi e cingendole entrambe con le braccia. Fate venire anche me da voi, mi piacerebbe essere vostra amica. Mi piacete un sacco tutte e due. Vi ho urtate con la mia frivolezza, vero? Non è così? Non molto, rise Anna, rispondendo alla stretta della ragazza con un ritorno di cordialità. Perché non sono sciocca nemmeno la metà di quel che sembro, sapete? Se vi limitate ad accettare Filippa Gordon così come è stata fatta dalla natura, con i suoi difetti, tutti quanti, credo che finirà col piacervi. Non è delizioso questo cimitero? Adorerei essere sepolta qui. Qui c'è una lapide che non avevo visto prima, questa dietro la grata di ferro. Oh, ragazze, guardate! C'è scritto che è la pietra tombale di un giovane guardia marina ucciso nella battaglia tra la Shannon e il Chesapeake. Fantastico! Anna si fermò presso la grata e osservò la pietra consunta dal tempo, con il cuore che le batteva all'impazzata per l'eccitazione. Il vecchio cimitero, con i suoi archi di fronde e i lunghi arabeschi disegnati dalle ombre, scomparve alla sua vista. Al suo posto si delineò il porto di Kingsport di quasi 100 anni prima. Lentamente emerse dalla bruma leggera una fregata grande e splendente con la bandiera inglese sull'albero, e dietro ne veniva un'altra con una figura eroica e immobile, avvolta nella bandiera stellata, alta sul ponte di comando. Il glorioso Lawrence. Il gran libro del tempo aveva fatto scorrere all'indietro le sue pagine. Quella era la Shannon che risaliva trionfante la baia con la Chesapeake come bottino. Torna indietro, Anna Shirley, torna indietro, rise Priscilla scuotendola per un braccio. Sei lontana 100 anni da noi, torna indietro. Anna obbedì con un sospiro, mentre i suoi occhi brillavano dolcemente. Ho sempre amato questa vecchia storia, disse. E anche se furono gli inglesi a vincere, credo di amarla a causa di quel valoroso comandante sconfitto. Questa lapide ha riportato quel fatto così vicino a noi, l'ha reso tanto reale. Questo povero ragazzo aveva solo 18 anni. È morto per le ferite riportate durante un'azione gloriosa, recita il suo epitafio. Si addice a un soldato. Prima di allontanarsi, Anna colse un piccolo mazzo di viole del pensiero e le lasciò cadere dolcemente sulla tomba del giovane morto nella grande battaglia navale. Allora, che ne pensi della nostra nuova amica? Domandò Priscilla quando Phil le ebbe lasciate. Mi piace, c'è qualcosa di molto attraente in lei, nonostante tutte le sue assurdità. Sono convinta, e d'altronde l'ha detto lei stessa, che non è sciocca nemmeno la metà di quel che sembra. È una deliziosa bambina e davvero non so se crescerà mai. Anche a me piace, affermò decisa Priscilla. Parla molto di ragazzi, proprio come Ruby Gillis. Ma mentre ascoltare Ruby mi dà fastidio, mi fa venire il mal di testa, con Phil mi diverto e mi distendo. E riesci a capire perché? C'è una differenza, rispose meditabonda Anna. Penso che sia perché Ruby è davvero conscia del fatto che sono ragazzi. Lei gioca all'amore e a fare l'amore. D'altronde, quando si vanta dei suoi corteggiatori, è chiaro che vuole scolpirti in mente che tu non ne hai neanche la metà di lei. Invece, quando Phil ne parla, è come se parlasse di compagni di scuola. Li considera davvero dei buoni compagni ed è compiaciuta di averne molti che le ronzano intorno, semplicemente perché le piace essere popolare. Anche Alec e Alonso, non riuscirò mai più a pensare a uno di questi due nomi separatamente dopo oggi. Sono per lei soltanto due compagni di gioco che vogliono farla giocare con loro tutta la vita. Sono felice di averla incontrata e sono felice di essere andata all'Olsen Jones oggi. Questo pomeriggio credo di aver messo una radice, sottile, sottile, ma sempre una radice, nel suolo di Kingsport. Lo spero, detesto sentirmi trapiantata.